e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti a tutti. Ciao Deborah, buongiorno. Buon primo novembre. Anche noi oggi siamo in diretta fino alle 12. Seguiteci, intervenite all'800 24 0024. Anche il Palazzo c'è... del Sole sì. è praticamente deserto, esatto. Quindi teneteci compagnia. Siamo pochi ma buoni. Poi seguiteci, perché nel corso della trasmissione c'è una bella sorpresa. Quindi sì, per tutti gli super affezionati che hanno deciso di mantenere la loro presenza a cuore denari, oggi ci sarà appunto una sorpresa. Siamo aperti operativi come sempre in queste giornate di festa. Sono aperte anche le borse, per cui chissà tra l'altro se qualcuno di voi si è fatto così stimolare, incoraggiare dall'Halloween Indicator che abbiamo raccontato nella puntata di Investire Informati di giovedì scorso, e magari qualcuno ha fatto qualche blitz, qualche investimento d'autunno. Non fate le cose però in maniera spericolata, perché poi ci rimettete i vostri soldini. E direi di partire, Nicoletta, vi racconto intanto come sta andando oggi la borsa. Faccio una cosa molto veloce perché qua il quadro è nervoso e è partita bene la salute in Europa, c'erano rialzi in avvio di mezzo punto percentuale, vedo che però già è cambiata la direzione, adesso il segno meno torna a prevalere. Londra perde lo 0,22%, Parigi meno 0,31%, Francoforte meno 0,11% e Milano meno 0,02%. C'è molto nervosismo, Nicoletta, perché in realtà c'è questa grande incertezza sul voto presidenziale americano. Eh sì, perché come si dice, da pensare. Le sorprese sono dietro l'angolo e quindi la borsa è così un po' tremolante. A Milano tiene banco di nuovo il caso Monte dei Paschi, ieri è scivolata parecchio, oggi recupera l'1,65%. Stamattina abbiamo appreso che Corrado Passera, che stava preparando una cordata per entrare possibilmente nel capitale della banca, ha lasciato l'impresa perché ha detto che il gruppo non accetta la richiesta di avviare la cosiddetta due diligence, in pratica non gli permettono di andare a vedere i conti nella maniera approfondita che lui vorrebbe, per cui si è tirato indietro anche con un bel po' di disappunto secondo quanto stanno raccontando le agenzie. Intanto i vertici della banca sono in giro per il Medio Oriente per contatti con i fondi sovrani pronti ad entrare nel capitale, però il titolo guadagna appena 1,5%. Insieme a Mediobanca più 42 nel più 1,17, i cali più forti: CNH Industrial meno 2,5, STM meno 1,55, Tenaris meno 1,24%. Volevo segnalare che oggi inizia la riunione del FOMC, il Federal Open Market Committee, che è il braccio operativo della Banca Centrale Americana, ma sappiamo già che non verrà presa nessuna decisione di politica monetaria perché è tutto rinviato a dicembre al post elezioni americane. L'euro a 1,10, tondi sul dollaro. Direi che possiamo partire con il nostro primo approfondimento di oggi. Ancora una volta la mia terra e il mio cuore sono ferite dal terremoto. Così Giovanni Allevi, musicista marchigiano, che abbiamo avuto più volte, tante volte, il nostro amico, in diretta qui a Cuore Denari, ha commentato le scosse di domenica e sulle sue note torniamo anche noi oggi a parlare di terremoto. Il nostro pensiero va ai migliaia, alle migliaia di sfollati, molti stanno andando sulla costa, altri preferiscono non lasciare la loro terra, il loro paese. Al momento la terra continua a tremare, nella notte, Deborah, oltre 100 scosse. Un'altra questa poco mattina fa. Anche tu sì, hai parlato con la mia famiglia che continua a sentire tremare. Io ho tanti amici anche a Macerata, proprio nelle zone colpite, per cui li monitoro costantemente. Sì. Gli esperti del CNR, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno elaborato alcune immagini che hanno evidenziato che il suolo si è abbassato di 70 centimetri. 70 centimetri li misuravamo, sono più di due palmi. È tanto, 70 centimetri. Tu pensa a una casa posizionata insomma sopra una crepa di questo tipo, che cosa può subire? Allora, questi numeri, queste immagini spiegano la portata di questa tragedia e quanto siamo coinvolti in un evento che è al di fuori della nostra consueta esperienza quotidiana. È quasi inevitabile sperimentare anche reazioni inusuali, in alcuni casi ritornare a vivere con angoscia situazioni che pensavamo risolte, archiviate, metabolizzate, anche, diciamo, dimenticate. Come promesso ieri, oggi è tornato a trovarci il professor Giampaolo Perna. Buongiorno professore, psichiatra, direttore scientifico e primario presso la cura della casa di cura San Benedetto ad Albese con Cassano in provincia di Como e professore di neuroscienze a Maastricht e a Miami. Professore, grazie per essere con noi. Buongiorno Nicoletta e Deborah e tutti gli ascoltatori. Allora, oggi vogliamo dedicare questa prima parte della trasmissione alle conseguenze della paura, che possono manifestarsi in tempi e in modi diversi, pur avendo un'origine comune. La paura porta a giocare in difesa, evitare ci mette in guardia, quindi la paura si scatena ovviamente dopo il terremoto, la nostra mente si allarma fino a essere invasa dal terrore. Il corpo reagisce con il batticuore, tremore e capogiro, tutta una serie di sintomi fisici spiacevoli. In realtà è più corretto parlare di ansia, perché la paura è una reazione quando arriva il pericolo, l'ansia invece è un'anticipazione, quindi ovviamente tutti questi terremoti ripetuti portano il pensiero a essere in allerta, pronti a combattere un nemico pericoloso che in questo caso è proprio il terremoto. Sentirsi impaurito e ansioso è assolutamente normale, soprattutto quando un pericolo si ripete, come in questo caso. Quindi non consideriamo l'ansia e la paura in questo momento come dei nemici, ma come degli amici che ci proteggono, ovviamente con dei caveat. Ansia, paura, fobie, panico. Quante volte abbiamo usato e forse abusato di queste parole? Sono in panico, vado in panico, lo si dice anche in occasioni che sono anche le più futili, tanto così per dire. Ma ci sono persone, professor Perna, per cui il termine panico sta a descrivere una delle esperienze più terribili della propria vita, l'attacco di panico. Allora, iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando e per farlo credo sia importante partire da una differenza tra due termini spesso usati come sinonimi, paura e panico. Quest'ultimo viene considerato spesso come una paura fortissima, il superlativo della paura, professore. Hai detto molto bene Nicoletta, infatti si fa molta confusione fra questi termini. Ricordiamoci che nel termine popolare il panico viene considerato come semplicemente una fortissima paura. In realtà in termini più clinici, più di medici, il panico è qualcosa di totalmente diverso. Quindi è qualcosa che fa parte di disturbi d'ansia, ma non è semplicemente una forte paura, è una sorta di paura precisa che si scatena senza un motivo apparente ed è legato al pericolo di star male fisicamente. Quindi non tanto la paura di un pericolo esterno, quanto il nemico da combattere non è fuori di noi, ma dentro di noi. Corpo. Adesso ci fermiamo, 800 24 00 24, se l'avete sperimentata, se avete un familiare che è stato colpito da un attacco di panico, attacco alla dice lunga, no? Improvviso, violento, molto fisico, a volte si attivano proprio quando le situazioni intorno a noi ci creano ansia, preoccupazioni, c'è una sorta di richiamo, per alcuni funziona così, ne parliamo subito dopo le informazioni sul traffico fino alle 11 con il professor Perna per poi proseguire con i temi di Cuore e Denari di oggi, tra poco. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Cuore e Denari. Panico, una miscela di smarrimento, di terrore che si presenta con sintomi fisici così marcati che chi la sperimenta pensa di morire o di impazzire. Ne stiamo parlando col professor Perna che è in linea con noi. Professore, per questo il primo attacco porta generalmente chi ne è colpito al pronto soccorso, pensando si tratti anche di un problema cardiaco. Assolutamente sì, infatti se esistono anche degli attacchi più dal punto di vista diciamo cognitivo, con la paura di impazzire e perdere il controllo, la maggior parte dei casi è il corpo che la fa da padrone, quindi tutte le manifestazioni fisiche sono quelle predominanti, tant'è che quella sensazione di malessere che invade il corpo fa pensare a un problema medico. Si va dal cardiologo, si va al pronto soccorso e di solito si va dallo psichiatra un po' dopo. Numerose ricerche hanno evidenziato una predisposizione biologica che, se unita ad eventi particolari della vita, terremoti, alluvioni, perdite, separazioni, lutti, può innescare un processo, diciamo, psicobiologico che porta poi all'attacco di panico. È corretto, professore? Quindi ci sarebbero delle condizioni, anche dei tratti che potrebbero in qualche modo permetterci di individuare precocemente questa predisposizione? Sicuramente esiste una predisposizione genetica, cioè sono tanti studi che hanno mostrato come esiste una sorta di vulnerabilità. Questo vuol dire che se abbiamo dei familiari con il panico, questo ci rende probabilmente un po' più predisposti. Predisposti non vuol dire avere il disturbo, vuol dire semplicemente essere pronti a. È verissimo che tutto sommato esistono anche dei piccoli segnali che ci possono far mettere in qualche maniera il campanello d'allarme. Per esempio il fatto di poter avere una difficoltà respiratoria, un senso di fame d'aria, per esempio il fatto di avere il timore di luoghi chiusi e affollati. Ecco, sono piccoli segnali che possono però essere l'allarme del fatto che potrebbe un domani presentarsi un attacco di panico e tutte le conseguenze del disturbo di panico. Siamo tornati proprio in questa prima parte della trasmissione a parlare di attacco di panico, perché molti di voi ieri ci hanno scritto che dopo eventi traumatici, come ad esempio il terremoto, hanno sofferto di questo problema. Professore, vogliamo fare una sorta di identikit della persona che può essere vittima di attacchi di panico? Inizio a dare una caratteristica: relativamente giovane. Verissimo, dai 15 ai 35 anni, la fascia più colpita, nell'esordio, con delle punte anche verso i 50. Più frequentemente donna. Anche questo è vero, di solito le donne sono colpite 2-3 volte più degli uomini. Con casi in famiglia, quindi persone che hanno sofferto di attacchi di panico più o meno violenti, è corretto? È verissimo, anche perché esiste questa vulnerabilità genetica, quindi di solito nelle famiglie tendiamo a trovare alcune persone magari che sono agorafobiche, claustrofobiche, che hanno avuto il panico, che sono andate a pronto soccorso senza una motivazione medica. Quelli sono segnali di questa predisposizione. Una persona che soffre o ha sofferto di altri disturbi d'ansia o di depressione? Vero anche questo, tendenzialmente più verso questi disturbi tipo la claustrofobia, piuttosto che disturbi d'ansia, piuttosto che di depressione. Però tendenzialmente nelle famiglie voi avete la tendenza ad avere disturbi emotivi. E qui possiamo forse introdurre, professore, un dettaglio in più al nostro identikit. Soffre di emicrania, e questo è un dato interessante perché sia il disturbo di panico che l'emicrania vengono chiamate canalopatie, cioè sono delle malattie causate dal malfunzionamento di alcuni canali ionici, una sorta di pori, mi piace definirle così, posti sulle nostre cellule nervose, ed entrambi appunto si manifestano ad attacchi. È corretto? Allora, diciamo che non è proprio corretto parlare di questa disfunzione dei canali ionici, nel senso che sicuramente c'è una disfunzione alla base nel sistema nervoso, poi in questo momento non si sa qual è in realtà. È verissimo invece che l'emicrania si accompagna spesso al panico, quindi spesso vanno a braccetto, e curare il panico talvolta migliora l'emicrania. Ricordiamoci che alcuni farmaci antipanico sono anche utilizzati nella prevenzione dell'emicrania. Professore, quindi abbiamo tratteggiato un po' l'identikit per capire chi è potenzialmente più a rischio, ma ci sono anche dei segnali, delle situazioni anticipatorie. Ho letto ad esempio che spesso una fame d'aria ingiustificata, quando diciamo mi manca il fiato, mi manca il respiro, non riesco, non mi passa l'aria, e potrebbe, mettiamo potrebbe, essere un segnale di attacco di panico. Hai detto molto bene, Nicoletta, è proprio così. Quindi la fame d'aria, l'affanno respiratorio, il disagio respiratorio sono sicuramente degli elementi spesso associati al panico, no? Un altro elemento premonitorio è ovviamente la presenza della paura degli occhi chiusi, perché se io ho paura, ho la claustrofobia, spesso ho la paura di soffocare, quindi rientra in gioco ancora la fame d'aria. Quello è sicuramente un elemento centrale. Se qualcuno dovesse manifestare questa sensazione senza un correlato medico preciso, ecco, l'ipotesi di una potenziale vulnerabilità al panico deve essere presa in considerazione. C'è una ricerca, infatti, professore, che mette in relazione gli attacchi di panico anidride carbonica. E lei faceva appunto riferimento al disagio che molte persone avvertono nei luoghi chiusi come metro, spazi molto affollati, dove manca un po' quest'aria. Si ha l'impressione. È una teoria. Sì, è una delle teorie principali sul panico, ipotizza l'esistenza di un vero e proprio falso allarme da soffocamento che avrebbe scatenato proprio da questi missili di ossigeno e CO2. È vero che nei luoghi chiusi e affollati l'aria può diventare viziata, e quest'aria viziata può favorire lo scatenamento del panico. Professore, ma che cosa fare in caso di attacco? La persona probabilmente non riesce a fare nulla perché è proprio in preda al panico, qua si può dire, ma le persone che le stanno accanto, che cosa devono fare? Ma devono sicuramente evitare che la persona continui ad ansimare, quindi essere molto decise nel dire rallenta la respirazione, controlla la respirazione, questa è una prima cosa importante. Nel caso in cui l'affanno fosse incontrollabile, lo si fa respirare in un sacchetto di carta, che è una metodica che aiuta ad evitare appunto l'anidride carbonica a diventare molto elevata. L'uso di ansiolitici non è realmente utile, quindi è inutile dare subito una benzodiazepina bomba. Tanto l'attacco di panico di per sé stesso passa da solo in giro di un quarto d'ora e 20 minuti, però in quel momento stare vicino alla persona e consigliarle di rallentare la respirazione sono due cose molto semplici che ognuno può fare. Esiste una maniera non farmacologica, una sorta di training per controllare l'attacco di panico? Penso alle persone che questo attacco l'hanno già sperimentato e vivono molto spesso nel terrore, nel panico di provarne un altro. Ma non farmacologicamente direi che sono due le cose importanti, o tre sono le indicazioni vere, no? La prima è quella di imparare a rallentare e controllare la respirazione, rendendo soprattutto la respirazione armonica, quindi questa è la prima indicazione. La seconda indicazione è quella di essere allenati fisicamente, quindi una sana fitness fisica, un esercizio aerobico può essere qualcosa che può aiutare a prevenire la ricorrenza degli attacchi. Un terzo punto importante è quella di non evitare le situazioni, cioè la panico porta a bloccarsi in casa, non uscire, aver paura di star male. Ecco, questo è sbagliato, tanto il panico se deve venire viene lo stesso, non è che stando in casa si è protetti, in compenso stando in casa si perdono opportunità e ci si allena di meno, visto che ci si muove di meno. Professore, chiudiamo con un messaggio a chi si è chiuso in casa e quindi pensa che l'attacco di panico in qualche modo condizioni o debba condizionare la sua vita futura, mette in atto quello che voi chiamate evitamento. Che cosa deve sapere? Primo, che non è in pericolo di vita, quindi non c'è un rischio di vita reale. Seconda cosa, che può tornare alla vita normale al 100%, quindi non star meglio, può tornare a star bene. Bisogna ovviamente trovare professionisti che si basino su terapie basate sulle evidenze scientifiche. Questo perché troppo spesso si offrono sia terapie farmacologiche che psicoterapie che non hanno un fondamento scientifico valido e che rischiano semplicemente di cronicizzare i problemi. Io ho visto persone che hanno avuto decenni di disturbo semplicemente perché sono state curate in maniera scorretta. Quindi chiedete anche al medico, allo psicoterapeuta, di dimostrarvi che la propria tecnica è davvero efficace. Questo è un vostro diritto. E che cosa può fare per dimostrarci che la sua tecnica è davvero efficace? Deve portarci le linee guida internazionali che mostrano che quello che lui sta facendo è aderente a queste linee guida. Ci sono pubblicate, sono scaricabili anche sul web e sono una linea di guida molto importante. Di cui metteremo naturalmente il link che il professor Perna ci fornirà a beneficio di tutti i nostri ascoltatori. È un vostro diritto, ha sottolineato il professor Perna. Deborah. Sì, no, stavo sempre nei nostri tentativi di creare qualche parallelo anche con le questioni finanziarie. La Consob, l'organismo appunto di controllo sui mercati finanziari, ha proprio ieri pubblicato le linee guida rivolte agli intermediari finanziari che le dovranno seguire molto attentamente per redigere i testi dei prodotti di investimento che verranno sottoposti ai risparmiatori. Per cui tu guarda che combinazione stamattina. Esattamente, li commenteremo proprio con l'ospite che ci raggiungerà tra poco. Per il cuore e per i denari. Ottimo. Professor Perna, grazie per essere stato con noi, le auguriamo una buona giornata. Anche a voi. A presto, buona giornata. Bene, guarda, siamo proprio state precisissime questa mattina, super puntuali come sempre. C'è anche Carmelo, in regia la parte tecnica. Dici che abbiamo avuto paura di lui. Eh sì, perché con questa barba, vedi com'è autorevole. Bene, siamo pronte a dare la linea al giornale radio, speriamo di non avere altre notizie non tanto confortanti dalle zone terremotate che continuano a tremare. Poi ritorniamo insieme, come vi anticipavamo, con una bella sorpresa. Proveremo anche ad alleggerire un pochino la mattinata, parlando di teatro, ma parlando anche di informazione finanziaria che va a teatro. E di secondo cervello. E chissà qual è sempre lui. A tra poco. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Cuore e denari. Clifford Stennis, un messaggio, vuol vedere? Sì, il mio cuore dice una cosa, il mio cervello ne dice un'altra, sai? Non è facile, no, mettere d'accordo cuore e cervello. Per me, cuore e cervello, i miei non si danno neanche del tuo. Il cuore è poesia ed emozione, il cervello è pensiero. Apriamo con Woody Allen questa seconda parte di Cuore Denari. Anche gli organi, cara Deborah, sono soggetti alla dura legge della popolarità. Alcuni sembrano più nobili, più importanti, più eleganti di altri. Di loro si parla volentieri, con affetto, ammirazione e stima, sicuramente senza alcun imbarazzo, a differenza di altri. Considerate il modesto intestino e il suo sistema nervoso. I visceri non sono certo il genere di organo che fa battere il cuore. Nessun poeta scriverebbe mai un'ode all'intestino. A essere sinceri, l'opinione generale è che il colon sia una parte ripugnante dell'anatomia. La sua forma è nauseante, il suo contenuto disgustante e ha un cattivo odore. L'intestino è una cosa primitiva, viscida e simile a un serpente. Il suo corpo giace attorcigliato nella pancia e quando si muove striscia. Per farla breve, l'intestino è spregevole e abietto. Diversamente dal cervello, dal quale affiorano pensieri saggi, l'intestino è decisamente un organo che soltanto uno scienziato potrebbe amare. E io sono uno di quelli. Lo scienziato è Michael Gerson, neurobiologo, che ha dedicato gran parte della sua vita a dimostrare scientificamente tutto quello che noi, diciamo la verità, già sapevamo e pensiamo, e cioè che pensiamo anche con la pancia, o se preferite abbiamo un intestino pensieroso, che a tutti gli effetti può essere considerato un secondo cervello. Secondo non naturalmente in termini di importanza, l'intestino infatti, o cervello enterico, non ha nulla che invidiare a quello cranico. Altro che semplice tubo, debole, governato dai riflessi. Il nostro intestino ha, penso, una complessità di compiti, basta pensare, e funzioni da fare letteralmente impallidire l'altro, anzi da meritare come il cuore una poesia, un'ode. Se volete cimentarvi, noi siamo qua, scrivetecela via WhatsApp, potete usare i messaggi vocali di WhatsApp, andare in diretta all'800 24 00 24, ma al momento ha meritato uno spettacolo teatrale. Salutiamo la nostra amica Alessandra Faiella, che è in scena in questi giorni al Teatro Verdi di Milano con uno spettacolo che si chiama Il cielo in una pancia. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, brava Alessandra. Buongiorno, buongiorno a tutti cari ascoltatori che siete venuti qui per ascoltare della mia pancia, che poi non è proprio la mia pancia. Il cielo in una pancia è lo spettacolo scritto da Francesca Sangalli, nato in seno al Festival delle Lettere, che voi conoscerete naturalmente, certo. Tutti che scrivono le lettere. Questa volta era Lettere di Pancia, è nato questo spettacolo molto divertente ma anche un po' intimista. Ecco, io mi gioco delle corde anche nuove, non soltanto comicità, ironia, umorismo, ma anche un pochino di, come posso dire, di malinconia nella parte finale, perché attraverso la maternità questo intestino ribelle che la protagonista ha avuto per tutto il corso dello spettacolo, che faceva fare delle figure di... delle figuracce, perché no, un pochino è la nostra parte emotiva, anche se abbiamo un secondo cervello nella pancia, ma lei questo secondo cervello nella pancia ce l'ha completamente fuori controllo. È come avere un figlio adolescente, no? Cioè tu cerchi di farlo ragionare ma non ci riesci. Lo so io che ce l'ho, il figlio adolescente e l'intestino ribelle. Quindi questa nostra protagonista, questo intestino ribelle, però alla fine, grazie alla maternità, riesce a conciliare testa e pancia, e poi dopo vi dirò perché. Allora, intanto quindi volevo chiederti, anche se era per finta, se sei una donna di testo o di pancia. Ma tu pensi che io sia di pancia, vero? Perché io faccio sempre delle figuracce quando ti conosce. E invece ti dirò sorprendentemente, che per anni sono stata molto di testa, però parlo più degli anni giovanili, dove forse dovendomi inoltrare in un mondo difficile come quello dello spettacolo ero molto cerebrale, cercavo di pensare, di andare molto dritta alla meta. Poi è vero che anch'io, come la protagonista dello spettacolo, devo dire che ha fatto un po' il percorso inverso a me, ma io dalla testa sono passata più alla pancia, perché è vero che nel momento in cui tiri su un figlio, chi è troppo cerebrale deve tirar fuori affettività, istinto, impulsività, chi è troppo di pancia deve usare anche la testa, perché il figlio non è che puoi usare, non puoi allevarlo solo. Trovare con un equilibrio, pancia. Una bella combinazione. E insomma, quindi sono diventata un po' più di pancia, per questo che quando ti vedo faccio sempre le gaffe. Allora, intanto 800 24 00 24. 24/7 di testa o di pancia? Riuscite a capirlo? Vi siete trasformati cammin facendo? Siete nati tutte testa e diventate tutte pancia? O siete dei pancio testa, pancio villa? Noi come siamo? Non ce lo siamo mai chiesto reciprocamente. Io sono pancia, pancia e faccio molta fatica a essere di testa, soprattutto con i figli, amici. Perché poi secondo me anche quelli che apparentemente sono di testa sono fondamentalmente di pancia. Ti piacciono di più? Ma che ne so che mi piace, guarda, guarda insomma. Senti, ma quello che invece io volevo svelare a tutto il pubblico esterno, ma anche a quello interno, a questo studio, fra un po' vi presenteremo anche l'altro ospite che è con noi, perché potevamo farci mancare un uomo qua, se no ovviamente sarebbe stato un gineceo. E che ospite. Io, Nicoletta, volevo dirti che anche se lei non te lo dirà mai, perché lei è un po' come tutte quelle donne che dicono, ah no, io di finanza non ci capisco niente, per cui per carità non parlarmi di questo mondo dal quale sono tanto lontana, volevo invece evidenziarti che la nostra amica Alessandra Faiella si è lasciata ammaliare dalle sirene della finanza, tanto che domenica 13 novembre sarà protagonista al Teatro Parenti di uno spettacolo intitolato La versione di Barbie. E allora voi direte, che cosa c'entra con la finanza? Mi sono lasciata ammaliare nel senso che mi danno un cachet, che mi pagano. Che non è quello per il mal di testa, no, ma un altro. No, il cachet in termini teatrali è un altro. Allora, perché volevo raccontare questo? Prima che Alessandra ci anticipi il contenuto di questo monologo comico ad alto contenuto satirico, io volevo raccontare ai nostri ascoltatori che è uno dei tanti spettacoli organizzati da A come ASGR, è una società appunto di gestione del risparmio indipendente che molti dei nostri ascoltatori conoscono perché li ospitiamo frequentemente, che organizza incontri ed iniziative dedicate a temi economico-finanziari in cui si combinano informazione, spettacolo e divulgazione, un modo per creare delle occasioni di alfabetizzazione per conoscere da vicino i meccanismi, le regole che governano il sistema economico-finanziario e il modo in cui ci poniamo di fronte al denaro. Ricordo che il ciclo più famoso di queste iniziative è La verità vi prego sul denaro. Noi ne abbiamo portato anche una puntata a Cuore Denari, Nicoletta, te mi lo ricordo, con il professor Giovanni Vecchi e con Laura Curino. Avevamo raccontato la storia bellissima dei bilanci di famiglia e ci era piaciuta molto, era piaciuta tantissimo ai nostri ascoltatori, tanto che avevamo raccolto del materiale che abbiamo inviato a Giovanni Vecchi, che ha arricchito nella sua banca dati. E insomma, il tema è che se ci si continua a lamentare del fatto che gli italiani non conoscono ancora a sufficienza le dinamiche finanziarie, i concetti dell'investimento e non hanno una buona competenza finanziaria, bisogna fare qualcosa e forse alle persone bisogna provare a trasferire in modo nuovo questi concetti. E chissà se serve farlo anche dal palcoscenico. Ce lo dirà stamattina Giovanni Brambilla, che è amministratore delegato di A come A. Giovanni, benvenuto. Grazie, buona giornata a tutti. Con un passato da attore teatrale, perché questo lo dobbiamo dire. Non sponsorizziamo troppo questa cosa, altrimenti... No, ma magari il vostro percorso è particolarmente efficace perché c'è chi l'ha organizzato con cognizione di causa. Sì, no, certamente il mondo del teatro ha fatto parte della mia esperienza passata, lo fa ancora... fa ancora parte oggi, ovviamente in veste differente, non più d'attore ma da promotore di attività all'interno del mondo. Adesso ne parleremo, ma magari ad Alessandra questa versione di Barbie gliela facciamo raccontare, che non c'entra, una Barbie spendacciona, risparmiatrice, no, investitrice. No, guarda che appena dici Barbie lei fa un po' la Barbie. Faccio un po' la Barbie, sì, no, perché stavo pensando che forse l'hanno scelta non tanto per questo motivo, ma perché è uno spettacolo abbastanza esplosivo. Soprattutto sul mondo femminile, ma in cui anche gli uomini si riconoscono molto. Si parla di donne di oggi, di rapporto tra uomini e donne, di giovinezza, di vecchiaia. È uno spettacolo che ho scritto, tratto da un libro, La versione di Barbie, appunto, che è uscito con Mondadori ormai già 3 anni fa. Uno spettacolo che ha avuto un grande successo e tra l'altro lo ripropongo, colgo l'occasione, in una situazione molto diversa, infatti qui il nostro amico era un po' preoccupato, perché lo ripropongo il 10 di novembre al carcere di Opera, e infatti lui era preoccupato perché che ti dovessero trattenere, devo farlo da loro, se rimango chiusa lì, ma non è possibile. Non ti vogliono, secondo no, me. Non mi voglio, secondo me non mi va. Ed è importante anche prenotare prima, perché c'è tutta una trafila da fare. È molto bella questa esperienza, io sono molto felice di farla, perché questa insieme di detenuti e persone che non sono detenute, persone che vengono dalla società civile, che insieme assistono a uno spettacolo, secondo me è un'esperienza un'esperienza meravigliosa che sono molto felice di fare il 10 novembre. Però c'è tutta una trafila da fare, dare la carta d'identità, non è che si entra nelle carceri così semplicemente. Dopodiché andrò invece dai nostri amici di A come A e lì appunto invece non ci sarà bisogno di documenti speciali, ecco. Allora, Giovanni Brambilla, parliamo invece di queste vostre iniziative, sono state tante in questi anni appunto in cui avete provato a portare la finanza a teatro. Qual è la storia di questo percorso che vi siete dati? Perché portare l'economia e la finanza sul palcoscenico? Un nuovo modo di fare marketing, di far conoscere la vostra attività, di procacciare nuovi clienti? Molto sinceramente qualcuno potrebbe pensare questo, no? In realtà c'è dell'altro. Diciamo che il progetto è nato per cercare di trovare l'equilibrio tra la pancia e la testa, quindi anche lì, perché anche in finanza bisogna cercare di fare un mix dei due, non troppa testa perché altrimenti si diventa troppo metodologici, ma neanche troppa pancia perché altrimenti si rischiano di fare scelte che poi impulsive e spesso e volentieri in finanza le scelte impulsive non portano a nulla. L'idea è nata proprio per cercare di, attraverso il mondo del teatro e quindi attraverso un format un po' particolare, quindi con un elevato livello artistico, perché solitamente diciamo la serata si svolge con un reading di attori abbastanza famosi, ne cito qui stiamo parlando alcuni. Della verità, vi prego, sul teatro, sì, non esattamente. Sul denaro, sì. Sì. anche su denaro e teatro, esatto. Certo. Sull'amore, che il titolo sulla viene pancia, dall'amore, il cervello, dall'amore, sul teatro. La verità, sì, vi prego sul denaro. La verità, vi prego sul denaro, che appunto è un ciclo di incontri che diciamo a sfondo, come sfondo hanno i temi economico-finanziari, e il tentativo è quello di dare appunto attraverso la partecipazione di attori abbastanza famosi come non so, Favino, Gifuni, Joel Dix, Popolizio, giusto per ricordarne alcuni, Gigi Alberti, insomma ne sono passati parecchi, prima sì. Citavamo la Curino. E quindi è un format in cui c'è questa parte diciamo molto artistica, un reading economico, i temi trattati sono stati diversi come la storia della moneta, lo scandalo della banca romana, la storia di John Law, i conti di famiglia come i conti dicevamo di famiglia, prima come con la Laura prima. Corino, esatto. E quindi l'idea è quella proprio di portare alla fine dello spettacolo una sorta di takeaway, no? Di due o tre messaggi importanti da dare diciamo al pubblico, ai presenti, per poter affrontare un pochino, certo, il mondo della finanza in maniera differente, ecco. E quindi banalmente cercare di dare in base al tema della serata quelle due o tre regoline per poter poi affrontare in maniera differente con maggior consapevolezza, perché l'obiettivo è quello di dare consapevolezza, di far sì che il risparmiatore sia consapevole di quello che sta facendo nel momento in cui si, certo, trova di fronte il proprio consulente finanziario. Chissà qua se sono stati loro a copiare Investire Informati o al contrario noi abbiamo sbirciato in La Verità, Vi Prego sul Denaro, e poi abbiamo creato la nostra rubrica. Sono nate concomitanti, diciamo, però il tema è quello. Ci siamo influenzati diffondere consapevolezza su questi argomenti che sono spesso indigesti per molte persone, ma in realtà non possiamo far finta di niente. Le dinamiche finanziarie purtroppo ci interessano, e spesso quello che dico io è che anche quelle lontanissime da noi, dai mutui subprime alla crisi cinese, ce le ritroviamo infilate nel nostro risparmio improvvisamente e spesso con grande sorpresa e anche con grande rammarico e un po' di frustrazione. Nicoletta, andiamo avanti con sì, la nostra questa panciotta? Andiamo avanti con la pancia. Tra poco ci raggiungerà il professor Dino Vaira, che per noi è un amico di Cuore Denari, che ci racconterà, ci svelerà tutto sul nostro. È anche un po' un attore anche lui, ogni tanto. Beh, un po'. Ma anche il secondo cervello. Un po' di spirito. Vediamo se c'è il professor Vaira. Non mi risponde, si fa un po'. Professore? È un artista anche lui. Ha messo giù perché tu gli hai detto paura che voleva della fare l'attore. No, io non ho capito poi questa Barbie. La Barbie è una donna perfetta, sì, col denaro, sì, sì, che c'entra? No, come chiediamo a loro perché l'hanno scelta. È stato un caso perché il Teatro Parenti vi ha messo lì a disposizione questo spettacolo in qualche maniera. No, no. Vi piaceva Alessandra Faiella, la volevate a tutti i costi? Sicuramente è una bravissima attrice, adesso non perché siamo perché qui ci ha colpito molto. No, nonostante ovviamente sia amica di Cuore Denari, è un'ottima attrice. No, ci è piaciuto molto l'idea di avere uno spettacolo molto vivo, che trattasse diciamo del tema, anche del tema della donna, che nel mondo, anche nel nostro mondo della finanza, è diciamo un pochino, è un mondo che appartiene un pochino meno al sì, genere femminile, che noi invece vorremmo che potesse allargarsi sia come consulenti che come risparmiatrici, assolutamente, direi, da entrambi i lati. È un mondo molto maschilista il nostro, ed obiettivamente sì, esatto, vorremmo che potesse in cambiare effetti, il futuro. La versione di Barbie, esatto, se vogliamo usare una brutta parola, perché è una parola che oggi, oddio mio, è uno spettacolo un po' femminista, cioè wow, nel senso, oggi si ha molta paura di questa parola, non naturalmente perché ancora si intende il femminismo, l'odio per gli uomini, non, niente, niente di tutto questo, ma diciamo che è uno spettacolo nato proprio per dare voce a quelli che sono ancora i gap che ci sono, no? Gli sì, dislivelli in Italia culturali, nell'economia, nella emancipazione della donna. È uno spettacolo molto di testa, Barbie, mentre Il cielo in una pancia è uno spettacolo più di pancia, in cui si parla di emozioni. Si parla sempre un pochino da un punto di vista femminile, perché questo è un po' il mio approccio. Non potrei fare altro essendo femmina, non posso vedere le cose in modo maschile. Libero di essere me stesso, libero di camminare, andare in giro, puoi mostrare a tutti quanti la mia pancia. E ritorniamo alla pancia. Vivere di pancia come la protagonista è sempre solo causa di guai, o c'è qualche cosa di positivo negli istinti viscerali, Alessandra? Ma lo spettacolo, appunto, Il cielo in una pancia, diciamo sempre in scena al Verdi in questi giorni fino a domenica al Teatro Verdi di Milano, è uno spettacolo in cui la protagonista vive molto di pancia in tutta la parte della sua vita, la prima parte della sua vita, infanzia e adolescenza, dove appunto la pancia le crea alcuni guai che però sono risolti in chiave ovviamente comica. Per esempio, tutte le amiche durante l'adolescenza si innamoravano del più bello, del più figo, del più palestrato, del più intelligente, del più ribelle, lei si innamora del più sfigato, Demetrio Spano che dice "Ehi, io vuoi venire a fare i compiti a casa mia?" Che è alto un metro e una noce, un metro e un bicchierino, diciamo, e questo è per esempio un esempio del suo vivere di pancia. Poi appunto ha questa madre invece molto repressiva, che le insegna sempre le regoline universali: stare più in silenzio possibile, non tirare le verdure a tavola, dare ascolto alla professoressa e non rotolarsi nel fango. Con questa madre estremamente rigida e repressiva, lei invece vive totalmente di impulso, è balia della sua pancia, diventa rossa, piange, poi l'adolescenza ovviamente è un periodo devastante, e poi, come vi raccontavo prima, invece finalmente con la gravidanza impara a usare la testa, al contrario di quello che si potrebbe pensare o che vi ho detto io della mia esperienza. Perché come faresti senza la testa ad affrontare le sfide più drammatiche della maternità, tipo rivederti tutti i film strappalacrime della Disney? Cioè, io quando ho rivisto, dice lei, la scena di Biancaneve compianta dai nani nella bara di cristallo, ho dovuto farmi prescrivere del Prozac. che sono pensavo veramente... che la più terribile in assoluto fosse Bambi. Anche, infatti, anche la citazione inizia Dumbo. Con ci sono tutti, siete tutti preparati, ci sono tutti, c'è Bambi, inizia la rievocazione nello spettacolo della visione dei film della Disney, inizia con Bambi e quindi con lei che cerca di spiegare al bambino: ecco, questo è Bambi, ha perso la sua mamma, ma forse la ritroverà un giorno, perché sono quelli veramente strazianti, e devi lì mantenere la calma, usare la testa, perché è il bambino che in quel momento ha il diritto di piangere e non tu, devi avere il polso della situazione, e quindi impari la cosiddetta intelligenza emotiva, cioè a tradurre le emozioni con le parole. Insomma, i due cervelli, quello di testa e quello di pancia, si parlano, si condizionano, si influenzano, sono lontani ma così vicini, simili ma tra loro diversi. Insomma, abbiamo bisogno del professor Vaira, che vediamo se c'è. Prova a chiamarlo tu, che a te risponde. Professor Vaira. Sono qua, Alessandra, lei ha assolutamente bisogno di un gastroenterologo, sono qui per lei. Ma io buongiorno, sto benissimo, a tutti, buongiorno. Io guardi, la pancia ce l'ho abbastanza sana, la testa no, ma la pancia sì. L'avevamo non detto ci credo, no. Non ci credo, non ci credo, con tutto quello che scrive, con tutto quello che fa, un ottimo gastroenterologo dall'alma mater di Bologna, dall'Università Le Serre. Con la consueta modestia, però mi sono laureata anch'io all'alma mater di Bologna, però, voglio così dire che anch'io ho una testa, mi sono laureata anch'io lì. Però no, volevamo segnalare che ha la bottiglia d'acqua in mano, Alessandra, perché il professor Vaira, tanto la sua raccomandazione principale era sarà bere. Quella, bere, bere, bere, bere, quindi almeno... Vedi, però di un Alessandra... po', naturale o gasata? No, non si può dire no. Eccoci, vede frizzante. Che ha bisogno del gastroenterologo, È grave, bere l'acqua frizzante. Accidenti. Ma non la bevo quasi mai, porca miseria, proprio stamattina mi ha detto frizzante o liscio, ho detto frizzante. Professore, allora, abbiamo parlato dei... vi richiamo all'ordine, faccio un po' la maestrina. Vai. Che mi piace, perché sennò qua ridono le l'acqua. Ma vogliamo parlare dei due cervelli, ci aiuta a capire quanto sono simili e quanto sono diversi questa strana coppia, professor Vaira? È fondamentale questo cervello del pancino, a parte gli scherzi, è veramente fondamentale, è il vero motore dell'altro megagalattico nobile che è un pochino ai piani alti, ma i due collaborano in senso stretto, ma realmente biochimico e realmente dal punto di vista fisiopatologico. Quindi i due cervelli sono a stretto regime, noi diamo sempre tanta enfasi al cuore perché è giusto che sia così, il nostro cuoricino batte e ci sembra che tutto lì è il mondo, in realtà il cervellino e la pancia sono quelli che ci fanno ridere, ci fanno emozionare, ci fanno disperare, ci fanno piangere, ma è tutto lì, mentre il suo cuoricino sta lì che batte in maniera quasi impercettibile, in maniera quasi monotona. A volte sono i mercati, Deborah, che ci fanno tremare un po' la pancia. E in questo periodo devo dire che sono ritornati un po' effettivamente ad essere... Ah sì, sono le 11.31, devo raccontarveli. Meno male che c'è l'amico di testa che guarda l'orario. Testa. Sì, anche testona. Stamattina un po' di mal di... Devo dire che a creare un po' di mal di pancia è questa attesa per le elezioni americane. Da qualche giorno operatori un po' nervosi perché non si sa bene che strada sta prendendo questa competizione. Perché stanno facendo quasi un testa-testa. Ritorna un testa-testa. Ma c'è anche qualche autorevolissimo analista che comincia a dire: attenzione, perché il signor Trump forse avrà la meglio, per cui non diamo per scontato nulla fino all'8 di novembre, e poi magari con Alberto Brambilla ci faremo raccontare un po' di più questa pancia, magari che tipo di così conseguenze genera nelle persone che prendono le decisioni finanziarie di pancia. E è un tema anche questo molto interessante. Intanto ci prendiamo una pausa di poco più di un minuto per raccontarvi quello che succede stamattina in borsa. Vedo che è ritornato di nuovo tutto positivo, qua volatilità alle stelle, a tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. La funzione di assorbimento e di mantenimento delle funzioni organiche. Sì, è nell'addome, parte dallo stomaco e arriva al retto. L'intestino è quello che... Allora, innanzitutto dopo la digestione praticamente serve a far sì che una parte di ciò che si è inserito fuoriesca e quindi... Beh, è un organo molto importante e comunque serve per digerire i cibi dopo che sono stati selezionati dalle... Cioè... Cioè intestino, questo quasi sconosciuto nonostante la sua importanza. Ripartiamo da qui, da questo Vox Populi in cui l'intestino ne viene fuori un po', no? Un po' malandato. Sappiamo ma non osiamo forse, insomma, di intestino noi oggi vogliamo parlare perché è un cervello a tutti gli effetti, un cervello che ha guadagnato anche il palco, lo sta guadagnando in questi giorni e con noi Alessandra Faiella al Teatro Verdi con lo spettacolo Il cielo in una pancia fino a domenica. Sì. Ci togliamo subito, noi abbiamo pensato di... Ho lanciato tutta la prima parte della trasmissione, arriva la sorpresa. Arriva una sorpresa, perché allora, che cosa abbiamo pensato per voi? Anzi, che cosa farà Alessandra Faiella per loro? per i vostri intestini. Che cosa farò? Metterò a disposizione dei biglietti. Sì, 10 coppie di ascoltatori che decideranno di andare a vedere lo spettacolo da domani a domenica. Cosa devono fare? Devono mandare un'email, un SMS, un WhatsApp, che cosa possiamo dire? E basta. Il piccione viaggiatore 10, non ci raggiunge. Con i vostri dati, Mario Rossi e Luigina Bianchi vogliono andare a teatro. Esatto. Allora noi gireremo i vostri riferimenti all'organizzazione dello spettacolo. Ad Alessandra Faiella. A lei, coordina anche questo. Sì, ma io penso avrà che da lavorare. Lo passeremo alla mia splendida organizzatrice Sara Novarese, che cito perché è un mito dell'organizzazione teatrale. Mettete anche la vostra mail. 10 coppie vuol dire che potete andare in 20 praticamente. E sono tanti. Voi e la vostra amica, il vostro compagno, la vostra compagna, il vostro figlio, figlio, amici, il vostro fidanzato. Figli. Portate il collega di lavoro che detestate, che così magari gli arrivano si dei messaggi. E diventa più buono. Bravo, portate chi volete, 10. Da adesso fino alla fine del... Possibilmente scriveteci solo se avete intenzione di andare e non facciamo che cominciano a circolare tutti questi nomi. Per di tempo c'è un trattamento di favore, punto. Sì, ottimo. Esatto. Chi è la regista che vogliamo citare? Il regista è Andrea Lisco, maschio, ma che ha fatto una regia molto poetica, nonostante sia maschio, ha fatto una regia molto poetica, questi palloncini meravigliosi creati invece da un'altra femmina, la nostra Giovanna Angeli, scenografa, e donna è anche l'autrice, Francesca Sangalli, ci tengo a dirlo, è un'autrice molto giovane, ma già pluripremiata, molto brava, e ha scritto un testo veramente bello da mettere in scena, lo dico perché io... di solito faccio i miei testi, i miei monologhi, così come dire, io sono autosufficiente e me la tiro. E invece questa volta, anche se è un monologo, ho scelto Francesca, o forse Francesca ha scelto me, non lo so, forse il Festival delle Lettere ha scelto tutte noi due, e ha creato questa, è nato questo connubio. Però c'è un lavoro di gruppo appunto con Andrea Lisco, con Francesca, che ha prodotto qualcosa di veramente particolare, perché c'è anche molta poesia, e per la prima volta mi hanno detto: mi hai fatto piangere, non nel senso dall'obbrobrio, ma nel senso che oltre alle risate ci sono anche momenti commoventi. Allora vediamo se ci commuove con un identikit dell'intestino su cui abbiamo tante informazioni ma forse un po' confuse il nostro professor Vaira, che ha già conquistato lo studio, perché i nostri ospiti, il dottor Brambile e Alessandra Faiella, ci hanno detto: beh, però vedi che medico smart, nonostante il pedigree, perché intanto c'è già una mail: Silvia e Luca vogliono andare a teatro con il loro indirizzo di posta, quindi qua già due ne abbiamo conquistati. Allora, prof. Eccoci, siamo qui, mia cara. Allora, l'intestino, ce lo fa un breve identikit? Dato e che se lei dicesse che il grande Giambattista Morgagni nel 1760 diceva che l'addome è la tomba dell'internista e non il cuore, che in realtà sin da tempo immemore si era già capito che è la pancia che è il vero problema di tutti noi. L'intestino, in realtà noi ci viviamo con questo benedetto intestino, perché non solo ci assolve tutto quello che non mangiamo, non solo ci dismista quello che ci serve e quello che non ci serve, è laboriosissimo, è meraviglioso, riesce a capire tutto. Purtroppo, essendo interscambiabile con quell'organo nobilissimo che è il cervello, gli manda tutti gli impulsi, per cui quando è bello felice gli manda l'impulso di felicità, quando invece mangiamo delle schifezze dice al cervello: guarda che cavolo sono costretto a fare pur di mantenere questo equilibrio. Ma la parola d'ordine, a parte gli scherzi, è l'equilibrio. L'altra parola d'ordine è il microbiota, cioè questi miliardi di batteri con cui noi viviamo, ringraziando il cielo, con cui noi nasciamo, con cui noi letteralmente facciamo tutto l'escursus della nostra vita, e l'equilibrio di questo benedetto microbiota, guardi, non è l'acqua, ma è l'equilibrio di questo microbiota che ci permette di essere felici o non felici. Chiaro, no? Sì, esatto, come posso sempre fare una domanda al dottore? Veloce, però dottore, è rapida. Nello spettacolo la mia autrice Francesca Sangalli dice che nell'intestino abbiamo un vero e proprio secondo cervello e dei veri e propri neuroni della pancia. È vero o si è documentata o ha inventato tutto? Evidence-based medicine, che significa medicina basata sull'evidenza, che è la nostra Bibbia, mia cara. Benissimo. Assolutamente sacrosanto. Perfetto, grazie. No, mi state guardando. No, coinvolgiamo anche il nostro ospite di Denari questa mattina, perché abbiamo già anticipato prima che avremmo fatto un ragionamento sulle modalità con cui le persone prendono le decisioni di investimento e spesso sono molto condizionate dalla pancia prima della razionalità. E a proposito di testa e pancia che si incrociano, Giovanni Brambilla, amministratore delegato di Acomea, voi cercate di arrivare alla testa, di far pensare, di fare educazione finanziaria con un linguaggio capace di raggiungere appunto le persone, lo avete fatto a teatro, abbiamo già spiegato tutta la rosa delle iniziative intraprese appunto nei mesi passati. Adesso ce n'è un'altra imminente, molto interessante, per la quale non è necessario, immagino, prenotarsi da nessuna parte, non si distribuiscono biglietti appunto a cuore denari, ma si può partecipare a Book City. No, sì. A Milano, una grande iniziativa che vedrà protagonista questa città sabato 19 novembre e domenica 20 novembre. Voi ci sarete con Leggere l'economia con A come A. L'obiettivo è sempre quello, scardinare i luoghi comuni che vogliono l'economia e la finanza come territori lontani e mondi incomprensibili. Che farete in quella fase? Quindi con Book City faremo tre incontri, tre punti, diciamo, sono tre testi che verranno analizzati, diciamo, dagli autori, e ci sarà la presenza, oltre che di un moderatore ovviamente, anche di uno dei partner della società. La giornata di sabato prevede due incontri, sempre tutti e tre al Teatro Franco Parenti. Il primo sarà alle ore 11 con Sabbie Mobili, Esiste un banchiere per bene, libro di Fabio Innocenzi, e per Acomea sarà presente il nostro presidente Alberto Foà. Questo sabato? Sabato 19, prossimo, tra due settimane. E alle ore 16, sempre in sala Acomea, sarà, diciamo, il tema sarà, vertirà sull'ascesa, sul testo Ascesa e declino, storia economica d'Italia, con Emanuele Felice, per Acomea sarà presente il vicepresidente Roberto Brasca, e l'ultimo sarà domenica mattina alle ore 11 con il testo La verità sul capitalismo di John Plender, e per la nostra società sarà presente il vicepresidente Giordano Martinelli. Ovviamente il tutto nella solita logica che abbracciamo anche in altri format, che è quella appunto di portare un po' di consapevolezza anche attraverso queste iniziative sul fatto che appunto la finanza e l'economia non sono argomenti così pazzescamente ostici quantomeno per nelle tutti scelte quanti. Della Anzi, quotidianità, ecco. Esattamente, per citare Pennac, che tutti quanti conosciamo, lo diceva, che un buon libro, e io aggiungerei anche soprattutto se tratta magari di economia e di finanza, salva da qualsiasi cosa e persino da te stesso. Io devo venire a lezione da voi, perché con le finanze sono... Ecco, ma noi abbiamo le informazioni sul traffico, che c'è Carmelo che sta scalpitando. Io però, allora, senti, in molti a scriverci, voglio andare a teatro, eccetera. Noi abbiamo detto un trattamento particolare a chi ci manda un'email con i dati per andare a teatro. Non abbiamo pensato, attenzione a quello che fate, perché un trattamento particolare può anche essere portatevi Alessandra Faiella a casa per una settimana, quindi non ci sono biglietti omaggio, c'è un trattamento particolare, quindi scriveteci e Alessandra Faiella, anzi gli organizzatori. Beh certo, la diva. Ecco, della diva, andiamo, quindi Alessandra Faiella a casa una settimana che parla e mangia, non lo so. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Cuore e denari. Muoviti, muoviti. E allora muoviti, muoviti. Che muoversi faccia bene, lo sappiamo, Nicoletta. Cioè, almeno una puntata a settimana dedicata al movimento. Mi stai dicendo che sono un po' noiosa, vero? No, professore, senta, fa bene anche all'intestino, esatto, vero? Muoversi. Prima cosa per quello. Sì, assolutamente sì. E poi si muovono molto anche i mercati finanziari, ma sembra che il fitness esista anche in finanza, non perché questi uomini della finanza spesso sono anche un po' naturalmente degli atleti, non fanno solamente gli attori, no? Giovanni Brambilla faceva l'attore, adesso fa a pieno titolo appunto, è a 360 gradi il consulente finanziario, però voi avete anche un po' studiato tutto il tema del fitness finanziario, in che termini? I termini sono sempre quelli che, diciamo, riportano un po' ai temi che abbiamo visto finora, cioè quelli della consapevolezza. Il, diciamo, il financial fitness, come l'abbiamo chiamato, è un modo per diciamo, tenersi allenati in ambito finanziario. È un format che noi generalmente facciamo con i nostri distributori, i nostri partner con cui distribuiamo i nostri prodotti finanziari, e consistono essenzialmente... Fate fare la staffetta, li portate in qualche campo, no, di diciamo, calcio, non c'è una... qualche pista da corsa? Non è una vera e propria attività fisica, è un financial fitness, nel senso che è un modo per tenere allenata la pancia o la testa, dipende un pochino quella che si usa di più nelle scelte finanziarie, per far sì che le scelte finanziarie siano il più consapevoli possibili. E quindi sono proprio dei format dove con la presenza di risparmiatori, guidati ovviamente dai loro consulenti a cui noi facciamo formazione, diciamo, analizziamo a seconda un pochino delle situazioni, analizziamo delle tipiche trappole in cui ci si può trovare nel momento in cui si affronta il mondo del risparmio. Le trappole mentali le abbiamo anche affrontate ieri con Armando Massarenti e Paolo Legrenzi, per cui qua si tornano costantemente questi argomenti. Insomma, il tema è che si può parlare di finanza in maniera anche gradevole, abbordabile, e non ci sono più scuse. Le persone non possono più dire io non ci capisco niente, possono persino andare a teatro per prendere confidenza con certi concetti. Certo, noi siamo qua a Milano e magari è un po' più facile che su questa piazza si possano trovare iniziative di questo tipo, ma magari sul territorio, perché no, se ci si dà da fare qualche cosa di interessante si trova. Cosa Noi abbiamo fatto anche iniziative al di fuori di Milano, la verità vi prego sul denaro, anche il financial fitness le facciamo anche in tutta Italia, quindi fate, siamo stati a Spoleto, siamo stati tournée, si chiama la verità proprio sul denaro in tour, in proprio tour, vedi. Professor Vaira, bisogna inventarsi anche un tour per parlare di intestini, un tour per parlare di pancia, ci portiamo dietro Alessandra. Non è certo un caso che Alessandra fa questo spettacolo con una femminuccia, perché le femminucce sono mille volte più sensibili di noi maschietti, quindi sono più felici, hanno più grandi emozioni, sono molto più intelligenti, ripeto, però hanno molto di più mal di pancia rispetto ai maschietti. Non si può avere tutto, siamo più intelligenti, più sensibili, però questo abbinamento che tu suggerisci, Nicoletta, sarebbe meraviglioso, un tour medicina e teatro per parlare per parlare di pancia, di testa, di rapporto tra la testa e la pancia, di come rispettare anche la nostra pancia, che è un organismo, come ha detto lei, dottore, sensibile e che ci suggerisce molto di più di quello che pensiamo, no? Il nostro motore, cara, veramente il nostro motore, mi creda, è veramente il nostro motore. Non è un caso, come lei giustamente dice, che quando siamo bene di pancia la vita ci sorride sul serio. Certo, come nella pubblicità dello yoga. La mia bifidus è sempre omnipresente tra di noi. Allora, nonostante abbia minacciato gli ascoltatori, che innanzitutto ha sottolineato che non si tratta di biglietti omaggio, ma di un trattamento di favore, perché non li pagherete il doppio. Ecco, e nonostante abbia detto attenzione che potrebbe venire, continuano a scrivere. Però per continuare a scrivere, non mi scrivete biglietti omaggio perché non sono omaggio. Dovete scrivere la vostra mail e ricordarvi che avete tempo di andare a teatro entro il 6 di novembre. Il 6 di novembre, mi raccomando, che è una pomeridiana il 6, perché è una domenica, gli altri giorni invece sono alle 20:30. Abbiamo un orario un po' presto, perché essendo a Milano la gente, cioè, non è che si può far tardi, andare a letto a mezzanotte, che poi la mattina devo andare a lavorare, produrre, fare fatturato. E allora facendo alle 8:30, e quindi pensiamo sempre anche ai denari, e lo spettacolo dura 70 minuti. Quindi andate anche a letto presto. Quindi si mangia tardi, però. Però si può mangiare prima oppure si può mangiare professor Vaira, lei quando va a teatro snack, piccoli snack, lasciate da parte Obelix e Asterix. Piccoli snack, io lo voglio tutti i giorni con questa, vero? Con questa verba un po' cinematografica e ovviamente comunque teatrale al Teatro che Verdi, dove io rappresento appunto Il cielo in una pancia, come ormai avete capito, fino al 6 novembre, c'è anche un meraviglioso barettino dove fanno dei taglieri. Dottore, ci permette di mangiare i taglieri prima dello spettacolo, ma o anche certo dopo? Che sì, ma possiamo certo mangiare che i taglieri? Sì, ma anche dopo. Anche certo dopo, sì, grazie. Cioè, sono un po' misti. Ci beve un po' d'acqua naturale. Naturale, non naturale, vabbè, glielo prometto. E vino, bene, un bicchiere al giorno si può, no? Ma assolutamente. Bravo. Sì, è indispensabile. L'adoro. Ah, ecco, glielo cioè ordino, non glielo suggerisco. Benissimo. Glielo prescrivo. Ah, ma non c'è bisogno rossa che me lo ordini. Io già un bicchiere di vino rosso al giorno è la mia dieta. È fantastico. Grazie. Qua è nato un amore e noi come sempre quando cioè, ci glissiamo, ci mettiamo da parte. Succede sempre così. Tu presenta un amico ad un'amica, poi loro combinano e tu stai a casa. Esatto. Manco grazie magari. È sempre così. Manco eh grazie. Ma no, Nico, vieni anche tu. A dai, anche, dai, porto anche Deborah. Venite sì anche voi. Allora Deborah, stiamo andando verso la chiusura. Magari solamente, guarda, solo per una questione di cronaca, un'ultima domanda a Giovanni Brambilla volevo farla, perché mi rendo conto che poi riportarci sul seminato tradizionale di cuore denari è difficile, dopo esserci divertiti, però insomma, c'è questa benedetta Consob, che è l'autorità che controlla i mercati finanziari, Giovanni, che ha pubblicato, perché prima l'ho anticipato agli ascoltatori che ne avremmo velocemente parlato, volevo fartela commentare, ha pubblicato le linee guida che gli intermediari finanziari dovranno seguire per redigere i testi delle soluzioni di investimento che proporranno appunto ai risparmiatori. Dovranno essere testi magari teatrali, comunque brevi, concisi, semplici, comprensibili e immediati. Siamo ad una svolta. Che cosa ne pensa una società che fa questo di lavoro e che dovrà magari ottemperare a queste linee guida, di queste raccomandazioni? Beh, in effetti dovrebbero essere sempre così le linee guida. Poi dipende da quante leggi e da quante cose bisogna rispettare perché non dietro è sempre colpa vostra. Per cui ovviamente se hai tante cose da rispettare, anche nelle linee guida devi prevedere tutta una serie di cose. Diciamo che secondo dal nostro punto di vista molto fa l'attitudine dell'operatore, per cui se la SGR opera in maniera trasparente, etica, non ha bisogno di dover imporre, è come uno che va in macchina e non ha bisogno di avere il limite di velocità per non andare a 200 all'ora. Sa benissimo che se va a 200 all'ora corre certi rischi. Quindi un po' di buon senso, per gli altri. Ecco, anche dalla finanza è possibile. Anche da questo punto di vista. Quindi sì, il prospetto di 500 pagine, però magari accanto il bigino semplice e sintetico, sì, per far capire a tutti quello che si fa, la scelta di risparmio che si fa. Noi torniamo allora domani? Torniamo domani, sì, qua il ponte è finito, si ritorna regolarmente al lavoro, grazie a Giovanni Brambilla, ad Alessandra Faiella per grazie essere stati grazie con a noi, voi al professor Dino Vaira, che è ancora lì. Grazie. Io volevo venire a vedere lo spettacolo, anch'io. E l'aspettiamo. Mandi la mail. Mandi una mail. Mandi una mail. Buona giornata a tutti.